Mistero. Quando talor frattanto, forse, sebben così, giammai piuttosto alquanto, come perché bensì? Ecco repente altronde, quavi eziandio perciò, anzi altresì laonde purtroppo in van, però. Ma se per fin mediante quantunque atteso che, ahi sempre, nonostante, con ciò sia cosa che. Pietro Coccoluto Ferrigni, detto Yorick.